Avevo un podcast, non c'è più, ma dal momento che persino Anonymous è tornato, perché non far tornare il podcast Roboto? Sigla. Beh, come prima puntata mi sembra giusto trattare proprio l'argomento citato poco fa, ovvero Anonymous, il ramo americano, originari, gli Anonymous originari, sono tornati, o perlomeno uno degli account collegati ad Anonymous è tornato attivo in questi giorni di letteralmente guerra civile e proteste nelle città degli Stati Uniti per quanto riguarda l'uccisione di George Floyd. Il cittadino afroamericano ucciso con un ginocchio al collo, soffocato da un poliziotto a Minneapolis. Perché sono tornati Anonymous? Anonymous hanno rimesso insieme i diversi pezzi sparsi negli anni passati, per cercare un po' di, perlomeno sembra, cavalcare l'onda di risentimento nei confronti degli Stati Uniti d'America e del presidente Donald Trump, eletto ormai nel 2016. I tweet quindi di Anonymous raccolgono una variegata e estesa mole di dati che vanno da password e mail che dovrebbero far riferimento ad ufficiali della polizia o del Minneapolis, della città di Minneapolis. In realtà questi dati sembrano essere non frutto di un attacco hacker recente, bensì di una semplicemente raccolta di dati già trafugati in precedenza, in passato, e quindi semplicemente una sorta di ridigestione, rimanipolazione di dati vecchi, rincollati insieme per creare un nuovo hype intorno alle, appunto, attività di Anonymous. Un altro dettaglio interessante è quello che riguarda invece la condivisione di dati che vedrebbero il collegamento tra Epstein e Donald Trump e quindi queste accuse di molestie su minori, informazioni che però erano già state pubblicate negli anni passati e quindi non si tratta di un vero e proprio leak con documenti mai visti prima d'ora. E quindi di nuovo si ritorna a quella che sembra essere una sorta di strategia di Anonymous, ossia quella di cavalcare l'attenzione mediatica, gli animi accesi, il sangue, le proteste, la violenza, per reinserirsi in una discussione nazionale. Ed effettivamente sta avendo seguito, perché come possiamo vedere sia l'account Twitter di Anonymous ha acquistato milioni di followers nel giro di nemmeno 72 ore, e allo stesso tempo perché giornalisti, acriticamente, ma non solo giornalisti, stanno ripetendo e facendo da cassa di risonanza a tutta una serie di informazioni condivise da Anonymous, prendendole acriticamente come se fosse effettivamente l'arrivo dei Cavalieri dell'Apocalisse che potranno risolvere le sorti degli Stati Uniti d'America. Questo fenomeno ci descrive due punti cruciali dello stato attuale del nostro mondo digitale e mondo digitale e di violenza e opposizione all'oppressore. Dalla prima parte c'è sicuramente un desiderio di azione e quindi di vedere che qualcuno, Anonymous, gli eroi, per così dire, di un decennio fa circa, se non di più. Vedere Anonymous ritornare, vedere degli hacker promettere di far qualcosa, risveglia chiaramente gli animi. Quindi tutto questo seguito, questi account che hanno iniziato a seguire l'account di Anonymous, fanno un po' da semaforo, da segnale di questa nuova, non nuovo, questo desiderio latente, perché chiaramente possiamo chiamarlo così, c'è sempre stato sotto, e non appena c'è una maschera, l'ennesima maschera, si riattiva. Dall'altro c'è la questione della disinformazione e del rischio di creare falsi eroi. Perché perché come stiamo vedendo con le informazioni condivise da Anonymous, non c'è, punto primo, non c'è nulla di nuovo, punto secondo, vengono manipolate ad uso e consumo stesso di una narrazione che cerca di posizionare Anonymous a capo della frangia della resistenza, per così dire. Ma qui i dati, fondamentalmente, ecco, alcuni sono falsi, altri sono stati già ampiamente discussi, quindi sì, può essere una sorta di promemoria, un rinfrescarsi la mente, ma in realtà non sono altro che un rischio di manipolazione per quanto riguarda la discussione e il dibattito pubblico.